sì, per questa, Claudio. Claudio, ci sei? C'è nessuno in monitor? C'è un monitor? Ci sei in frequenza monitor, Claudio, frequenza monitor? Claudio, frequenza monitor, ci sei? Chi è? Non stai uscendo del radio? Chi è? No, non stai uscendo del radio, dice Marino, sì. Chi sei? Non stai uscendo del radio, sei basso basso. No, questa è una monitor che abbiamo noi qua a Sassari, non so se tu sei di Sassari, ho visto questo segnalone. Comunque ciao, buonasera, sono Claudio. Questo è canale 1 LPD. E questo è canalizzato, canale 1 LPD. Dovrebbe essere intorno ai 433 mega. Ma cos'è, un portatile o un veicolare quello che stai usando? E ti segna anche la frequenza? Dici, questo dovrebbe essere canale 1 LPD. Dovrebbe essere intorno ai 433 MHz. Dici, canale 1 questo, Corrado, canale 1 LPD. Ma dove sei, qua a Sassari? Ah, ecco perché mi arrivi una bombarda, io sono su a Carbonati in alto. No, questa è una frequenza monitor che abbiamo noi CB di Sassari, capito? Nel caso serva così, io ce l'ho sempre accesa. E qui ho visto questa portante, ho detto, ma chi è? Boh, solo che non uscivi di radio. E controlla, perché sembrava che c'era solo la portante, il PTT, capito? Radio no, non ne avevi. Ecco perché ho visto il segnale ma non sentivo niente. Adesso invece stai andando benissimo. Evidentemente le connessioni non sono giuste, allora. A meno che non ci abbia la funzione del Vox, capito? Tu quando inserisci l'auricolare entra in funzione il Vox, quindi puoi parlare automaticamente, però vorrà regolato. Controllati le istruzioni. Esatto, esatto. Noi siamo qua. Quando vuoi fare due chiacchiere, ogni tanto noi siamo anche qua. Di solito stiamo al canale 10 in banda CB, però ti ripeto, io questa ce l'ho come monitor, è sempre accesa, quindi se chiami, se ci sono ti rispondo, ecco. Ok? Dai, ti saluto che sto trasmettendo sul canale 10 in CB. Mi ha fatto piacere ascoltarti, Corrado. Ci sentiamo. Controllati bene il tutto e poi magari richiamami. Ok? Dai, ci sentiamo. Ciao, buona giornata.